Non v'è più pace, e fra l'ardor dell'armi mal sicure voi siete, onde alle navi portate il pie. Sai che il Germán di Marzia di quelle è duce, e in ogni evento avrete pronto lo scampo al ben. Qual via sicura d'uscir da queste mura, cinta d'assedio? In solitaria parte, visire al fonte appresso, e a me noto l'ingresso. Signor, solo che a momenti pugnarsi deve, impone che far del giro, senza aspettar l'aurora, ogni ingiusto sospetto a render vano. Vengo sposo di Marzia, ecco la mano. Mi vendico così? Non li si ho figlia. Temo erbace, ed ammiro l'incostante tuo core. Più non s'aspetti, a lei porti erbace la destra. Eccola, il dono, il cor, la vita, il sogno, così presento a te. Non ti voglio! Come? Credi? Perché? Fingir non giova, tutto dirò. Mai non mi piace erbace, mai non soppersi, e gli può dirlo. E chiese di ferir le mie notte per cenno mio. Sperai che fin più saggio l'autorità d'un padre ne impegnar non volesse a far soggetti i miei liberi effetti. Ma già che sazio ancora non è di tormentarmi, e vorrei ridurmi a un estremo periglio, a un estremo rimedio anch'io m'appiglio. Son fuor di me, donne tant'odio e donne tanta audacia in costei. Forse altro fuoco l'accenderà così, fosse. E quale dei contumaci amori sarà l'oggetto? Dillo! Chi sa? Parlate! Il rispetto! Il decoro cede! Io lo dirò! Cesare! Sì, perdono da tuo genitore, mi debaccesi prima che fosse il nemico, e non potei sciogliermi più. Qual è quel cor capace d'amare e disamare quando gli piace? Giungo ad ascoltar! Piacati e pensa che le colpe d'amore... Togliti indegna, togliti agli occhi miei! Padre, d'una perfida figlia, ogni rispetto oblia, chi in abbandono mette il proprio dover. Padre, non sono! Ma che feci? Agli altari forse non mi involai, forse distrussi con sacrile da fiamma il tempio a Giove. Amo il fine, un eroe, di cui superba sopra i secoli tutti va la presente tale, il cui valore gli astri, la terra, il mare, gli uomini, i nubi favoriscono a gara. Onde segnano, o che re non so dio, o il fallo universale approva il mio. Scellerata il tuo sangue! Ma dottoressa, fai, mio sposo il custo! Aprente! Hai ingrata, amar un inimico, vantarlo in faccia mia, stelle spietate, a quale affanno i giorni miei serbati.